Qui a Rock FM sono le 8 spaccate. Chi ci sta seguendo in queste, da queste prime 9 puntate sa che abbiamo preso il vizio di farci aiutare dal lunedì al venerdì da una band, da un gruppo, da un artista particolare. Abbiamo iniziato la settimana scorsa con i Beatles e questa settimana invece per il reparto uccellini che... il reparto uccellini che suonano. La sveglia suona con i Rolling Stone. La Dea Satanic Majestic Request. Quest'oggi torniamo a viaggiare nello spazio. Non vi trovate più dove siete adesso. Vi trovate a 2000 anni luce da casa. Questa è roba forte, ragazzi. Roba che scotta. Buona giornata. FM a riportarvi a casa, fratelli e sorelle. Guarda che uno ce ne vuole a pensare di mettere sti brani tutti i giorni. Settimana prossima cerchiamo qualcosa di un filo più commerciale. E chissà se ci arriveremo a casa quest'oggi. E beh, quando si è a 2000 anni luce lontani da casa, il viaggio sarà sicuramente un bel viaggio. Da The Satanic Majestic Request. Oh mamma, cos'è che ha scritto questo qua? Mattia da Rotterdam, ma veramente, là là, fin da là in fondo. Vi ascolto sempre prima di andare al lavoro, oggi valuto l'attività luciferasica in ematomi umani trasfettati. Portatemi buona fortuna, ok? No, scusami Matteo, Mattia. L'attività luciferasica in ematomi umani trasfettati. Salè! che orgoglio, ragazzi. Guardate, vedere quando scopriamo cosa fate, dall'amico di ieri che mi lavava la tromba delle scale a questo qui da Rotterdam che mi fa l'attività luciferasica in epatomi umani trasfettati, uno si riempie di orgoglio. Vi abbiamo tutti qui nel cuore, bravi. No, niente commerciale, gridano. Mi piace molto Fabio, apprezziamo tantissimo i messaggi di autoironia qui a Pane, Burro e Rock'n'Roll, valgono sempre un po' di punti. Fabio scrive: per me che scrive una radio la mattina alle 7 non è mica normale. È un po' uno scoppiato, può essere, Fabio. Benvenuto nei nostri. In tanti, 335-100-7777, ma io perché perdo tempo quando c'ho i police lì pronti in fila che chiedono gentilmente di partecipare a Pane, Burro e Rock'n'Roll? Ma ragazzi, è ovvio, entrate anche voi. Ah, mi scrive un batterista, perché chi si è sintonizzato solo adesso si è perso una lezione di musica che stamattina ho dato, così, gratuitamente. Ho spiegato cos'è il levare, Daniele dice: no, guarda, l'hai spiegato egregiamente, soprattutto l'effetto scenico del movimento della mano. Grazie. Ah. È questo il levare, la chitarra in levare, vedi che va su. Ah. Ah. Cutra, cutra. Walking back home.

dice che il 13 non porti sfortuna. Per gli amanti della cabala, pane, burro e rock and roll, continua a approfondire il giorno 13 di settembre. Che poteva essere un giovedì qualsiasi per voi là fuori, da adesso non lo è più. Perché andremo a scoprire che... che anche per Andrea Mantegna, il famoso pittore italiano... fu una brutta giornata. Fu una brutta giornata, giovedì 13 settembre del 1506. Forse non era giovedì, questo lo premettiamo. Ah, sì, è però vero. Però fu lo stesso una brutta giornata. Forse, esatto, forse non era esattamente un giovedì quel giorno, ma era sicuramente il 13 settembre ed era il 1506 e il povero Andrea Mantegna dovete rassegnare le dimissioni dalla vita. Questo mi sembra un ottimo modo per girare la frittata. Passiamo a chi invece iniziò il contratto con la vita proprio il 13 di settembre. Adoro la sua metafora e adoro anche Jacqueline Bisset. Ah, la meravigliosa, la bellissima, la fascinosa, brava, la bella, brava, bella e brava Jacqueline Bisset, indimenticabile attrice inglese nata nel 1944 il 13 settembre. Non sappiamo neppure lì se era giovedì o un altro credo giorno, ma poco di no. Importa. Era sempre il 13 di settembre, ma del 1949, quando nacque Fred Sonic Smith, mitico chitarrista degli MC5. Gli MC5, ricordo di aver acquistato un disco in vinile, un long playing, dove si diceva... No, lo acquistai, lo devo confessare, ahimè, non ero ancora il teppista che poi sono diventato. Sì. Ebbene, diceva il retro di copertina che gli MC5 erano una vera band di amici che vivevano la musica assieme, dormivano assieme, bevevano assieme e, insomma, famigeravano assieme. Le piace questo termine, famigeravano? Famigerei con lei tutta la vita, caro Frico. È un neologismo che ho inventato per lei. Chiudiamo questi compleanni del giorno con due bellezze. Facendo i complimenti a Stella McCartney. La figlia, presumo. La figlia di Macca. Macca McCartney. Che è in qualche modo ricordata come attivista inglese. L'abbiamo qua segnalata come English activist. Complimenti a Stella e complimenti anche a Fiona Apple. Fiona Apple. Non la proprietaria della Apple, ma la cantante statunitense che nacque proprio il 13 settembre del 77. Allora, auguroni a Stella e a Fiona, due perle. People stay just a little bit longer. We won't play just a little bit longer. The promoter don't mind. And the union don't mind. If we take a time and we leave it all behind, say one more. grazie per gli applausi, ma ovviamente non sono per me, sono tutti di Jackson Brown. Mi confondete con questi applausi, mi confondete sicuramente con un altro, come per esempio Jackson Brown di Stay. Ho rubato, maestro, scusi, le ho rubato un classico del suo repertorio. 8 e 22 minuti primi, siete sintonizzati su Rock FM, una radio rock seria. Innocenzo. Siamo gente seria, no? Questo effettivamente non posso dirlo. Posso sicuramente abbracciare Giovanna via SMS, Max da Milano. Sapete cosa mi chiede Max da Milano? Che fine ha fatto il topo frigo? Grande Max, io sono in squadra con te. Il topo frigo è morto un po' di anni fa, ma un bel po' di anni fa. Chi ci ascolta da poco non sa che il vero nonno di Mr. Trombetta era quello che chiamavamo il topo frigo. Chissà se un giorno o l'altro non lo risusciteremo. Bisognerebbe farlo. Un saluto anche ad Alice, sentite qui, visto che si parla di mestieri a Pane, Burro e Rock and Roll. Beh, quando vi chiediamo di interagire con noi, spesso volentieri vi chiediamo di dirci a che gruppo d'ascolto appartenete. Sapete cosa fa Alice? Ci porta le cartoline e una postina grande. Via Locatelli 1, 20-124 Milano. Ti abbiamo fatto lavorare quest'estate, Alice, eh? Cartoline che continuano ad arrivare. E noi tentiamo di continuare a salutarvi tutti quanti. Si chiamano Rainbow e per tentare nuovamente di svegliarvi, ci giochiamo l'asso di All Night Long. Tra pochissimo il test attitudinale. State in campana, ragazzi. Quest'oggi non si deve sbagliare, ok? Questi due punti per la patente da vero rocker ve li meritate. What? quanto mi piace svegliarmi la mattina presto per venire a tenere compagnia ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici di Rock FM, soprattutto perché so che prima o poi arriva quel momento lì. Di quale momento esattamente si tratta, DJ Sa di cosa sto Ariel. Parlando? Del momento del quiz, quello che qui a Paneburro Rock and Roll si chiama testa attitudinale. Ah, ma è il Sancta Sanctorum, sì. Il momento fondamentale, quello che licenzia tantissimi rocker e tantissime rocker femmine, il momento che getta punti per la patente davvero rocker come se piovesse, tanti bollini per la patente di autentico rocker. Anzi, sa cosa le dico? Che quasi quasi al volo lancio l'ambita domanda di quest'oggi. Lei vuole procedere con il test attitudinale? Procederò. E va bene, lasciamo qualche secondo affinché i nostri radioascoltatori e le radioascoltatrici afferrino un bloc note su un foglietto di carta e si appuntino le domande di oggi per i loro bollini della patente autentico rocker. Domanda di quest'oggi: quale mitica cantante interpreta il ruolo della regina dell'acido, la cosiddetta The Acid Queen, nella famosa versione cinematografica del capolavoro Tommy degli Who? Chi era la regina dell'acido? Prima ipotesi, Tina Turner. Era forse lei? Seconda possibilità, Janis Joplin. Era forse lei? Terza ipotesi, Freddie Mercury. Era forse lui? Chi lo sa? Tra poco. Ma naturalmente... Sì, si tratta di aspettare poco. Intanto riflettete, prendete i vostri appunti, segnatevi le vostre risposte, perché la soluzione, come al solito, ve la diamo dopo. La risposta a tra poco.